non è ammessa la promozione di materiale artistico self prodotto se non è prima, come dire, confermato da Marrone. Pucchiacchia, e si finisce a taralucci vino, no? Anzi, fitte fratte, indefralle, cozze un'impepata, diciamo. L'impepata di pucchiacchia. Cozze. Ah no, facciamo un'impepata di pucchiacchia. Te la mangi tu. Ha ha ha.